Si tu chiudi l'occhio un minuto, con l'occhio chiuso vira sempre a me. E te ne accorgi che non è fornuto, e se è fornuto non lo vuoi sapere. Ma suona ancora, ma circa ancora, a capo coro. Tu non ne puoi fermare, e vota un pensiero, può diventare paura. Cari di braccia in alto, già da già scordata e non si niente più. Segretamente tu, si stai solo con sti mani asciutte, scende lacrime, e poi firma un signozzo che non si può sentire. Quando arrivano ricordi assai più forte, voglio mi tornare a bere, che passa per me fa sapere. Forse mi sbagliavo quante volte non credevo che tu avere ma volevo tutta la vita insieme a te. Forse non capivo che l'amore si perdeva in di notte che passava senza correre a te. Rimane, poi venga, rimane, e tu mi venivo ogni giorno lontano. Tu giuro, più tardi stasera, io tempo passava, non era più a ieri. Mi suona ancora, mi circa ancora, a capo coro, tu non ne puoi fermare. Segretamente tu, si stai solo con sti mani asciutte, scende lacrime, e poi firma un signozzo che non si può sentire. Quando arrivano ricordi assai più forte, voglio mi tornare a bere, che passa per me fa sapere. Inutilmente tu, senza amore va sanato che non ti va perdere, perché troppo innamorato e non ci può mai dire che sta innamorato è solamente innamorato di me. Segretamente tu, se stai solo con sti mani asciutte, scende lacrime,